chiudiamo questo lungo weekend con un po' di memoria storica. Infatti ieri era il 26 aprile 1966 all'Università La Sapienza accadde un fatto grave. Lo studente socialista Paolo Rossi venne ucciso durante un attacco fascista all'Università di Roma. L'attacco neofascista guidato da Delle Chiaie, un noto esponente e leader del gruppo fascista della Caravella. Parteciparono i fascisti quel giorno all'aggressione durante gli scontri con gli studenti della Sapienza, fecero cadere giù dalle scale Paolo Rossi, studente socialista e antifascista. Le persone presenti testimoniarono insieme a molte foto come numerosi studenti vennero picchiati selvaggiamente da fascisti con tacita accondiscendenza delle forze dell'ordine. Fra gli aggressori che uccisero Paolo si ricordano anche Serafino Di Luia, Flavio Campo, insomma noti fascisti, picchiatori dell'epoca. La questura e la stampa di quei giorni parlarono semplicemente di una rissa fra studenti, che Paolo si era sentito male in seguito a un attacco epilettico che l'avrebbe poi fatto cadere dalle scale. Il rettore Ugo Papi, anche lui ex fascista, giustificò i fatti, difese i fascisti negando l'aggressione. Quando poi sarà obbligato a dimettersi dal ministro dell'educazione si giustificherà dicendo: la mia unica colpa è stata quella di combattere sempre i professori di sinistra. In seguito alla morte di Paolo, le organizzazioni studentesche organizzarono numerosi cortei e il 28 aprile vennero occupate numerose facoltà per denunciare la colpevolezza dei fascisti nella morte del loro compagno e far capire che non erano più disposti a tollerare attacchi squadristi. Nei giorni seguenti si susseguirono ancora aggressioni però fasciste ai danni di altri studenti che vennero feriti in modo grave e viene infine condotto dai fascisti un altro massiccio all'università di Roma. Ma a questo massiccio assalto gli studenti antifascisti rispondono con fermezza cacciando i missini e provocando duri scontri con le forze dell'ordine. L'omicidio di Paolo Rossi è uno spartiacque dell'antifascismo italiano della seconda metà del Novecento, segnò la svolta per il movimento che stava irrompendo nella società borghese pervenista di quegli anni, dando la forza e il coraggio di rispondere in modo militante, di massa e organizzato al neofascismo e ai suoi continui agguati. Insomma, era per noi importante ricordare questa data, questo momento storico avvenuto dentro i viali della nostra università, perché l'antifascismo era ieri, l'antifascismo è oggi, l'antifascismo sarà sempre e dovremo continuare a portarlo avanti dentro le nostre università. Allora possiamo